E attenzione, forse perché siamo un po' noi investigatori grazie a Vittoria Mussini, o forse perché lui aveva voglia di raccontarci, abbiamo un vero investigatore privato. Pronto, Francesco? Pronto, ciao Matteo. Ciao, buongiorno. Grazie per la trasmissione. Grazie mille. Francesco, veniamo a te. Tu fai l'investigatore privato. Esatto. Ok, allora, la prima cosa è, qual è la tua giornata tipo? Ma la mia giornata tipo, io mi occupo del settore dell'infedeltà coniugale, quindi varia molto da caso a caso. Diciamo che seguo il soggetto dalla mattina presto fino alla sera quando rientra a casa. Ma quando il soggetto, come lo chiami tu, è al lavoro, tu lo aspetti fuori? Sì, sì, aspetto fuori. Il nostro lavoro è fatto di episodi, magari passa un camion in quel momento, lui esce, non lo vediamo e finisce l'indagine. Ma quindi, scusa, l'immagine proprio dell'investigatore che sta col panino e la Coca-Cola nel bicchiere di carta? Esatto, esatto. Sì, sì, a volte cade tutto dentro la macchina. Ma nessuno passa mai a dire, scusi, cosa sta facendo lei qua fuori in macchina? No, a volte passano anche i carabinieri perché vengono avvisati. Ma infatti, perché fai qualcosa di illegale? Com'è? Cioè, ti capita di fare qualcosa di illegale che non può no, essere... No, è tutto legale, è tutto però legale. Chiaramente la gente vedendo una persona che sta ma cioè, ok, chiaro, si insospettisce, ma pedinare una persona è legale? Pedinare una persona oggi con la giurisprudenza odierna non è legale, non si può fare più. Quindi noi scriviamo osservazioni ravvicinate. Ok, senti, l'ultima cosa, dimmi in percentuale quanti sono i casi per cui dovete seguire per motivi di infedeltà, in percentuale rispetto al caso che... Beh, in percentuale diciamo che sono un 70%. Ok, la maggior parte.